I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La seconda edizione della Voluntary Disclosure, l'emersione volontaria dei capitali detenuti illegalmente all'estero, non sembra destinata a ripetere il buon successo ottenuto con la prima operazione di Voluntary che si è chiusa a fine 2015. Quell'operazione ha consentito la regolarizzazione di oltre 60 miliardi di euro, più di 16 miliardi sono materialmente rientrati in Italia, altri 44 sono sì rimasti all'estero, ma questa volta in modo trasparente. La Voluntary Disclosure, così come è previsto anche ora, non è un vero e proprio condono e ha garantito allo Stato oltre 4 miliardi di entrate fiscali. La nuova versione del rientro dei capitali, che resterà aperta fino al 31 luglio, va però a rilento. Lo dice un sondaggio effettuato dal Sole 24 Ore tra un panel di oltre 100 grandi studi professionali, che nel 97% dei casi hanno risposto che il grado di adesione alla sanatoria è compreso tra i livelli di basso e molto basso. Poche, pochissime le domande già presentate. Il punto è che con queste premesse sembra impossibile che l'operazione possa portare nelle casse pubbliche l'importo atteso di 1,6 miliardi di euro. Un rischio non da poco, perché senza le risorse del rientro dei capitali potrebbe essere necessario aumentare l'IVA, con un costo quindi a carico di tutti i consumatori. È un problema in più anche in vista della legge di bilancio 2018, che tra clausole di salvaguardia e rispetto dei parametri europei già si annuncia alquanto complicata. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alberto Orioli. 47 miliardi di investimenti pubblici da realizzare nei prossimi 25 anni, tutti rigorosamente con fondi dello Stato. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato oggi a Palazzo Chigi il DPCM di ripartizione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2017. Riportato dai tempi storici a quelli più di cronaca, si tratta per quest'anno di un nuovo fondo con una dotazione di 1,9 miliardi, che diventano 3,15 miliardi nel 2018 e 3,5 l'anno successivo, per poi ridursi a 3 miliardi l'anno fino al 2032. Anche se è lodevole la programmazione di lungo termine, non c'è da immaginarsi un impatto clamoroso, perché l'entità annuale degli stanziamenti non è da record in un'amministrazione pubblica e negli ultimi anni ha segnalato un calo degli investimenti superiore al 10%. Il criterio base per decidere come spendere quei fondi sarà l'immediato avvio dei cantieri, e gli investimenti verranno canalizzati su 3 direttrici, 3 per la competitività e 3 per la qualità della vita e la sicurezza. La fetta più grossa è dedicata alle infrastrutture, vale circa 20,4 miliardi, per lo più destinati a Ferrovie e ANAS. Nel pacchetto però rientreranno anche il trasporto pubblico locale e la messa in sicurezza della rete ferroviaria regionale non interconnessa con l'infrastruttura gestita da RFI. Non mancherà anche il MOSE di Venezia. Altra voce molto rilevante riguarda la messa in sicurezza dai rischi sismici, vale 7,7 miliardi di euro, per lo più destinati a scuole e a strutture pubbliche. Sempre 1,7 miliardi sono destinati a programmi per il sostegno della competitività e delle esportazioni e includono l'informatizzazione della giustizia e il potenziamento del credito all'export. Una quota importante, 12,8 miliardi, è destinata al piano per la sicurezza nazionale e all'alta tecnologia, un programma strategico rilevante. Passerà da qui anche la difesa rispetto agli attacchi degli hacker globali, in grado oggi di mettere in ginocchio l'economia di un intero paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.